un occhio, due occhi, tre occhi. Molto tempo fa, in una terra lontana, viveva una donna con le sue tre figlie. Due delle figlie, un occhio e tre occhi, erano le sue preferite. Le amava entrambe e dava loro qualsiasi cosa desiderassero. L'altra figlia, tuttavia, aveva solo due occhi e dal momento che assomigliava molto alle altre persone, le sue sorelle e la madre provavano grande disprezzo per lei. Doveva indossare i loro abiti vecchi e logori e mangiare solamente i loro avanzi. Facevano tutto il possibile per renderla molto infelice. Ma nonostante tutti i problemi che le causavano, era comunque gentile e generosa con tutto ciò che incontrava e vedeva. Ciao uccellini, avete fame? Mi dispiace, non è molto, ma dovrebbe bastarvi. Un giorno, mentre le sue sorelle e la madre finivano di pranzare, Due Occhi prese il suo posto a tavola per mangiare. Che ne pensi, Un Occhio? Dato che Due Occhi è diversa da noi, può sedersi al nostro tavolo? Hai ragione, Due Occhi. Tu non sei come noi. Vai via e non avvicinarti. La povera Due Occhi fu così ferita dalle loro parole che corse fuori piangendo. Mentre piangeva, improvvisamente, con un lampo di luce, una vecchia fata apparve magicamente e si fermò di fronte a lei. Indossava un mantello che luccicava al sole e portava un bastone fatto di scintillanti gemme preziose. Due Occhi rimase completamente sbalordita. «Perché piangi, cara piccola Due Occhi?» «Oh, buona fata! Mia madre e le mie sorelle mi odiano perché ho due occhi! Mi danno solo gli avanzi da mangiare e mi trattano così male!» «Asciuga le tue lacrime, mia cara, e ti dirò qualcosa di buono! Vedi il bastone che porti? Ogni volta che sarai affamata, recita questo incantesimo! Bastone magico, salta con me!» Copri la tavola di cibo per me. Il bastone iniziò a brillare vivacemente. Volò via dalla mano di Due Occhi e si trasformò in un grazioso tavolino con il cibo più delizioso che Due Occhi avesse mai visto. Oh, che meraviglia! E che profumino! Ora non avrai fame. Mangia e bevi quanto vuoi. E quando hai finito, di solo, bastone magico, ascolta la mia preghiera e togli il tavolo nella giusta maniera. E così svanirà di nuovo. Dicendo questo, con un movimento del suo bastone magico, la vecchia fata scomparve. Due Occhi era sbalordita da ciò che aveva visto, ma stava morendo di fame da troppo tempo. E così divorò ogni cosa dal tavolo. Ah, il cibo era delizioso! Sono molto felice, ma ora devo nascondere tutto questo. Bastone magico, ascolta la mia preghiera e togli il tavolo nella giusta maniera. E sorprendentemente, il tavolo e tutto ciò che era su di esso si trasformò di nuovo nel bastone. La sera, quando tornò, sul tavolo c'era un piatto di avanzi custoditi per lei. Ma lei non lo toccò e allegramente lo oltrepassò. Da quel momento in poi, Due Occhi usciva ogni giorno, mangiava e beveva fino a sentirsi sazia e tornava a casa felice. Ma un giorno, Un Occhio e Tre Occhi notarono che la loro sorella non mangiava quello che le avevano lasciato. C'è qualcosa che non va in Due Occhi. Lei non mangia più quello che le diamo. Forse ha scoperto altri modi per procurarsi del cibo. Dobbiamo scoprire la verità. Così il giorno seguente, mentre Due Occhi andava felicemente al campo, le sue due sorelle andarono silenziosamente dietro di lei. Guardò per vedere che nessuno la stesse seguendo, ma le sue sorelle si assicurarono che non potesse vederle. Quando Due Occhi arrivò, recitò a gran voce: «Bastone magico, salta con me! Copri la tavola di cibo per me!» E subito apparve magicamente il tavolo con tutto il cibo delizioso. Le due sorelle stavano guardando in segreto, e i loro occhi si spalancarono nel vedere tutto questo. È così che mangio ogni giorno. Non c'è da stupirsi che non abbia più fame. Veloce, torniamo a casa e raccontiamo tutto a mamma. Corsero a casa il più velocemente possibile e quando la madre udì tutto quello che Due Occhi aveva fatto, si infuriò. Come osa mangiare cibo migliore di noi? Lasciate che torni a casa e poi le toglieremo il bastone magico. Quindi aspettarono che Due Occhi tornasse. E quando lo fece, sua madre prese il bastone dalla mano di Due Occhi e lo spezzò. No! Oh, perché lo hai fatto? Questo ti sarà di lezione per la prossima volta che deciderai di imbrogliare di nuovo le tue sorelle e me. Ora patirai la fame per sempre. La povera piccola Due Occhi aveva il cuore spezzato. Prese i pezzi rotti del bastone e corse fuori. Andò in giardino e pianse amaramente. Proprio allora, la vecchia fata improvvisamente apparve di nuovo davanti a lei. Mia dolce Due Occhi, cosa c'è che non va? Perché piangi, cara bambina? Oh, fata gentile, il magico bastone, quello che mi avevi dato, che faceva la tavola così bella, mia madre l'ha fatto a pezzi. Oh, adesso dovrò soffrire la fame ancora. Due Occhi, ti darò un buon consiglio. Prendi i pezzi del bastone e seppelliscili nel giardino, dove la luna splende più luminosa. Questo, stanne certa, ti porterà fortuna. La vecchia fata ancora una volta agitò la sua bacchetta magica e in un attimo scomparve nella notte. Due Occhi si fidò di quanto detto dalla fata e fece come le era stato detto. La mattina dopo, là nel giardino, c'era un albero meraviglioso. Ogni foglia brillava d'argento e aveva frutti d'oro che brillavano alla luce del sole. La madre e le sue figlie lo fissarono con stupore. Mai nelle loro vite avevano visto una cosa così bella. L'albero è così bello? Ma da dove viene, mamma? Non lo so. È davvero una cosa molto strana. Usciamo e prendiamo i frutti. Solo Due Occhi sapeva che era spuntato dal bastone magico rotto. Un occhio, tre occhi e la loro madre corsero fuori e saltarono in alto per raccogliere i frutti d'oro. Ma ogni volta che allungavano la mano, l'albero piegava i suoi rami lontano da loro. Oh, ma perché non riusciamo a prendere nemmeno una singola foglia di questo albero? Mi riposerò perché sono molto stanca. Due Occhi le stava osservando e ora guardava l'albero. Lasciate provare anche me. Forse ce la farò. Ah, prova quanto vuoi. Se non ce la facciamo noi, perché ce la faresti tu? Ma mentre Due Occhi si allungava per raggiungere i rami d'argento, l'albero non si piegò via da lei. Anzi, brillava ancora di più e si piegava in avanti in modo che Due Occhi potesse raccogliere tutti i frutti che desiderava. Cercò di darne a sua madre, sperando di farle felici. Ma vedendo che solo lei era in grado di cogliere i frutti dall'albero, divennero gelose. Una sera, mentre erano tutte in piedi di vicino all'albero, passò un giovane bel cavaliere. La madre si girò frettolosamente verso Due Occhi. Veloce, Due Occhi, vai a nasconderti tra i cespugli. Non vogliamo che tu ci disonori. La povera Due Occhi si affrettò a nascondersi tra i cespugli. Il cavaliere era un giovane molto bello. Cavalcò e vide il meraviglioso albero d'oro e d'argento. Si chiese a chi appartenesse e poi vide le due sorelle. A chi appartiene questo bell'albero? Chiunque me ne darà un ramoscello avrà tutto quello che desidera. L'albero appartiene a noi. Ti daremo volentieri un ramoscello. Saltarono e provarono molto duramente a spezzare un ramo, ma invano. L'albero allontanò i suoi rami e i frutti dalle loro mani e non gli permise di toccarlo. È così strano che l'albero appartenga a voi, dato che non siete nemmeno in grado di prendere qualcosa da esso. È meglio che me ne vada via invece di perdere tempo. E così se ne andò. Le due sorelle e la loro madre ne furono molto seccate. Non preoccupatevi, mie care figlie, forse tornerà domani. Proviamo più intensamente, quindi. Quando se ne andarono, Due Occhi uscì da dietro i cespugli e si sedette vicino all'albero. Stava pensando intensamente al cavaliere. Quanto è bello! Se solo avessi potuto scegliere un ramo dell'albero e darglielo, avrei potuto dirgli quanto lo amo. Non appena lo disse, sentì la voce della vecchia fata venire dall'albero. Piccola Due Occhi, sei stata così gentile anche nella tua tristezza. Un cuore così gentile merita di essere ricompensato. Ho ascoltato il tuo desiderio e se è davvero quello che vuoi, te lo concederò. Oh sì, non desidererei altro che essere con il mio amato cavaliere. Lo desidero con tutto il cuore. Molto bene, allora fai come ti dico. Prendi una foglia dall'albero e mettila sul tuo vestito. E mentre lo faceva, il suo vestito strappato si trasformò nell'abito più bello che si potesse immaginare. Aveva foglie d'argento e rose di rubino dappertutto. Ora siedi su questa foglia d'argento. Ti farà volare attraverso il cielo notturno dal tuo amato. E mentre la voce smetteva di parlare, una foglia d'argento fluttuò lentamente verso Due Occhi. Crebbe di dimensioni e scintillò magnificamente nella luce lunare. Due Occhi si sedette sulla foglia e la fece volare via attraverso il cielo notturno, oltre la luna e le stelle, fino al balcone del cavaliere. Mentre scendeva dalla foglia, questa si trasformò in un ramo d'argento con un frutto dorato che pendeva da esso. Oh, caro bel cavaliere, per favore, ascolta ciò che ho da dirti. Ti ho portato il ramo dell'albero d'argento che desideravi. Chi è che mi chiama così tardi? Ma quando uscì e vide Due Occhi in piedi sul balcone, rimase a bocca aperta, perché la sua bellezza era diversa dalle altre e non riusciva a staccarle gli occhi di dosso. Due Occhi era molto contenta di vederlo. Mio signore, hai promesso di dare qualunque cosa che ti avesse portato questo ramo. Infatti, e cos'è che desideri? Due Occhi gli parlò di sua madre e delle sue sorelle e di come l'avevano maltrattata. Ho sofferto la fame, la sete e la tristezza e sono venuta per chiederti di salvarmi e prendermi come tua sposa. Sarei felice di sposarti, mia cara, ma prima devo punire tua madre e le tue sorelle per averti trattata così. Oh, perdonale, mio cavaliere, e dimentichiamoci di loro che fanno parte del mio amaro passato. Apprezziamo l'oggi e costruiamo un meraviglioso domani. Così il giorno dopo, il cavaliere e Due Occhi si sposarono con una grande cerimonia. E vissero felici e contenti.